Video game. Nuovo appuntamento con il mondo dei videogiochi e, come sempre, l'inizio della puntata dedicato alla soluzione del gioco della settimana scorsa, quello che vi fa portare a casa un premio. Ecco quindi le risposte. Livello 1. Quella bianca è affilata. La risposta era Arma. Livello 2. Il protagonista della Genesi. La risposta era Dio e, mettendo insieme le due parole, si ottiene Armadio. Il mostro di fine livello, infatti, chiedeva: mostro di fine livello. Quello più grande si definisce così. La risposta era 4 stagioni. Complimenti a Ippolito, che si porta a casa un buono da 300 euro. Ma veniamo adesso al gioco di questa settimana. E come sempre dovete risolvere i due livelli per sconfiggere poi il mostro di fine livello e avere quindi la soluzione da inviare a videogiochi@radio24.it. Per il primo che indovina c'è un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Euronics. Livello 1. Amate e costose. E adesso preparatevi a mangiare la polvere. Dirt 3 è un simulatore di rally che piacerà davvero a moltissimi possessori di Xbox 360 o di PlayStation 3. A parte i dettagli grafici, che sono molti e che vi daranno l'impressione di trovarvi davvero fra i boschi finlandesi o in mezzo alle piste innevate di Aspen, Dirt 3 ha la sua forza nella giocabilità. Anche chi non ha mai guidato in vita sua, nella realtà come in un videogioco, troverà questo titolo di Codemasters particolarmente interessante, perché grazie alle tante opzioni è possibile davvero tarare la difficoltà di gioco in base alle proprie capacità. Destra facile, all'interno, sinistra media, non tagliare. Verso traguardo. Lo scopo del gioco ovviamente è quello di far carriera nel mondo dei rally, partecipando a 4 anni di eventi che permettono, corsa dopo corsa, di incrementare la reputazione del pilota. Ma prima di spiegarvi quali gare dovrete affrontare, ecco la seconda parte del gioco che vi coinvolge e che vi dà la possibilità di portarvi a casa un buono da 300 euro. Livello 2. Contiene polli. Torniamo a parlare di Dirt 3. E per fare carriera dovrete piazzarvi sul podio di molti eventi diversi, come ovviamente i rally o i rally cross, ma anche la gincana, il Land Rush, dove 8 veicoli si batteranno per distruggersi a vicenda, o i Drift Showcase, dove lo scopo è quello di affrontare tutte le curve a disposizione in derapata. Fra le opzioni che potrete selezionare c'è anche quella relativa al grado di distruzione dell'auto e potrete cioè scegliere se fare in modo che il danno sia solo visivo oppure realistico. Nel primo caso l'auto sarà inguardabile ma continuerà a correre, mentre nel secondo, per continuare a gareggiare, dovrete passare dal meccanico. Ehi Stefano, ci siamo quasi qualificati! Non perdere la concentrazione proprio ora! Se avete poi un account YouTube, potrete anche fare in modo che i video delle vostre gare più belle vengano direttamente pubblicati in rete per essere poi guardati da milioni di fan. Così si fa, superstar! E poi io ti do, ok? E siamo anche in finale. Grande! Dirt 3 è divertente, facile da affrontare per chi non ha mai guidato e appassionante anche per chi sa già dare il meglio. Consigliato dai 6 anni in su. DC ha una sorpresa per te. Il tuo... Non rovinare la sorpresa, Christian. Grazie, Enzo. E prima di passare alla classifica dei giochi più venduti della settimana, ecco la terza parte del nostro gioco, il mostro di fine livello da sconfiggere con la risposta giusta alla domanda che sto per farvi. E chi invierà la risposta corretta per primo si porterà a casa un buono da 300 euro da spendere online o in qualunque punto vendita Euronics. Mostro di fine livello. Quando c'è, manca. La risposta, come sempre, a videogiochi@radio24.it. E adesso la classifica. Al quinto posto resistono i Pokémon White solo per Nintendo DS. Al quarto posto il VIP Pass di LA Noire con diversi contenuti aggiuntivi, fra i quali un piccolo lapsus. Stabile al terzo posto la voglia di rimettersi in forma con Wii Fit Plus e Balance Board. Non poteva che essere così, secondo e primo posto per il poliziesco ambientato a Los Angeles e del quale ho parlato la settimana scorsa, LA Noire, rispettivamente per Xbox 360 e PlayStation 3. Al prossimo sabato, un saluto da Stefano Gallarini. Game over.